E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Punto. Punto e a capo. Una settimana di attualità di Gigi Donelli. Sono isolati, sono spaventati, dobbiamo andare avanti adesso e dire che non abbiamo paura di loro. Credo che chi oggi è sceso in piazza contestando avesse il diritto di farlo. Certo, i disagi che sono stati procurati ai cittadini sono ingenti, si sono corsi anche dei rischi. Gli studenti, i professori e la riforma targata Maria Stella Gelmini. Carissimi ascoltatori, benvenuti a questo nostro punto della settimana, partita sulla protesta intorno alla riforma e naturalmente sulla falla delle informazioni diplomatiche americane, rovesciate in rete da WikiLeaks. La rete, se fosse ancora necessario ribadirlo, sta davvero cambiando il nostro mondo, anche quando si tratta di organizzare una protesta. Sentite il racconto di Roberta Pellegatta. Gli studenti in rivolta del 2010 hanno una piazza in più rispetto agli universitari degli anni passati, quella virtuale. L'occupazione in corso è massiccia, attraverso i loro siti, blog, le loro televisioni online, attraverso Facebook, Twitter, YouTube. I ragazzi sono in perenne contatto, perfettamente aggiornati, anche quando sono su un tetto. Pietro, eccolo! In diretta dal tetto è una sezione video presente sul sito Rete 29 Aprile di un'associazione di studenti della Sapienza, aggiorna tra l'altro minuto per minuto sulle iniziative sparse per il paese. La televisione studentesca online Uniriot TV le documenta con decine di video. Quello che abbiamo sentito in apertura arrivava da Bologna, questo riguarda la protesta di ieri a Roma. Facciamo sì che questo giorno il governo non se lo dimentichi più! A questa mobilitazione virtuale ha cercato di adattarsi anche il ministro Gelmini attraverso una videolettera su YouTube. Ragazzi, sono qui per chiedervi una cosa. Non fatevi strumentalizzare dai baroni e non mescolate la vostra protesta a quella dei centri sociali. Se gran parte dei commenti al messaggio via web del ministro dell'istruzione è irripetibile, serie ed articolate sono state diverse risposte sempre tramite filmati su YouTube. Ministro Gelmini, non ci siamo mai fatti manipolare da niente e da nessuno. Siamo i ragazzi dell'Università di Siena. Quando tu dici che noi non dobbiamo farci strumentalizzare dai baroni, beh, guarda, non ti preoccupare, noi con i baroni fortunatamente non abbiamo nulla a che spartire. La parola d'ordine è non scollegarsi mai. L'ok della Camera, la riforma, ieri è rimbalzato in un attimo sui siti studenteschi. Il tantan virtuale avverte, la protesta continua. Bloccheremo questa riforma! Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Punto e a capo. Baroni, meritocrazia, dibattito sulla riforma Gelmini. Ancora un buongiorno da Gigi Donelli e bentornati dunque all'appuntamento con questa 48esima settimana dell'anno ascoltata, sentita e riproposta con lo sguardo di Radio 24. Insomma, la riforma. Intanto, come sapete, è fallito il tentativo di ridurre il sistema della parentopoli universitaria. La denuncia viene fatta dall'onorevole Borghesi dell'Italia dei Valori alla Zanzara di Giuseppe Cruciani. Antonio Borghesi, Italia dei Valori. L'emendamento che avete presentato, che era piuttosto interessante, quello sulla parentopoli, sì, no? È passato? No, naturalmente. No, è stato, guardi... Nessuna assunzione, nessuna assunzione di parenti all'interno della stessa università. Esattamente. Che voleva dire semplicemente che uno doveva andare, se era così bravo, doveva andare a trovare un'altra università. Però lei sa benissimo, Borghesi, che poi alla fine si mettevano d'accordo e facevano entrare i figli in un'altra università. Però sa, intanto dovevano mettere in essere una pratica che non è mica tanto semplice. Il governo gliel'ha semplificata del tutto, gli ha risolto il problema, perché ha detto basta che non sia parente nello stesso dipartimento. Ma chi vive in università sa bene che per uscire e entrare da un dipartimento basta una letterina, per cui... Capito, Parenzo Borghesi e tutta l'Italia dei Valori aveva presentato un emendamento alla riforma universitaria che prevedeva certo, i parenti più stretti, certo, diciamo, fino a quanto grado? Al terzo? Fino al terzo non potessero essere assunti all'interno della stessa università. Questo valeva per il futuro. Come professori, ecco. chi ha seguito la settimana attraverso i programmi di Radio 24 avrà sentito anche i dibattiti molto animati la mattina alle 9 con protagonista anche Oscar Giannino, che si schiera in difesa della riforma, parlando tra l'altro con molti ospiti, tra cui il professor Massimo Mazzotti, docente di storia della scienza all'Università Californiana di Berkeley, ma naturalmente coinvolgendo anche gli ascoltatori. E qui c'è proprio, lasciatemelo dire, tutta la magia della radio. In onda, in diretta, il punto di vista di chi ascolta, ma non solo. Marco, sentitelo, ricercatore nel settore delle biotech, prende la parola. Il problema qual è in Italia? Che negli Stati Uniti e in Inghilterra le persone di valore accedono a quel tipo di contratti tra i 25 e i 30 anni di età. In Italia, prima dei 40-45, non se ne parla nemmeno. Ora mi si potrebbe dire... Con questa riforma si va verso il modello anglosassone e magari fra 10, 15, 20 anni sarà così. Io dico due cose. Primo, può darsi, fatto sta che intanto bruciamo intere generazioni di ricercatori, quelli attuali. E secondo, c'è una grossa differenza, che negli Stati Uniti la meritocrazia si fa davvero, perché la ricerca si fa sul serio, ci sono fondi. Sì, e mentre da noi non la facciamo, continuiamo a non farla e stabilizziamo tutti. Questa è la sintesi. No, ah, no, ecco. No, e no, allora no, Marco, però qua ci bisogna... Ci intendiamo, non voglio polemizzare, ma per capire, perché sembra che nel resto del mondo è possibile, da noi no, perché ci sono i cattivi ordinari associati, io in molti casi sono d'accordo con lei, ergo, siccome è così, stabilizziamo tutti, ricercatori, no? Il problema è che prima bisogna dare gli strumenti e quindi fondi distribuiti non attraverso potentati ma attraverso il merito, gli strumenti per poter davvero competere sulla ricerca sul piano internazionale. Questo disegno di legge per la prima volta introduce, tardi, male, sapendo che i criteri di valutazione sono fermi al 2003, ma tenta di introdurre qualcuno di questi elementi rispetto al passato in cui non c'erano o no? Forse sì. Non sono stato chiaro. Io ritengo che per introdurli questi contratti dovrebbero essere accessibili all'età di 25-30 anni, subito dopo il dottorato, e non a 45. Se fosse così, allora sì, attualmente no. Secondo luogo, la meritocrazia si fa con gli strumenti. Se io non ho niente, perché in Italia ricerca all'avanguardia in campo fisico, nucleare, biotecnologico, che è la mia esperienza, e altre, non ci sono i soldi per competere, e è un dato di fatto. Gli stanziamenti stessi si riducono sempre di più. Se non ci sono gli strumenti per competere, con cosa competo? Ma noi torniamo alla cronaca. La riforma universitaria passata martedì alla Camera sarà dunque discussa al Senato dopo il 14 dicembre, come chiesto dall'opposizione, insomma, dopo il voto di fiducia al governo Berlusconi. Decisione irresponsabile, dice la relatrice della legge alla Camera, Paola Frassinetti, al microfono di Maria Piera Ceci. Io speravo che fosse calendarizzato prima del 14, anche perché quello in Senato è solamente un passaggio formale in terza lettura, in quanto questo provvedimento è stato in Senato 6 mesi prima dell'estate. Il problema è che abbiamo delle risorse che per essere stanziate devono essere approvate, quindi è inutile, cioè il provvedimento deve essere approvato, è inutile fare tante proteste, tante dichiarazioni contro i tagli e poi, come ha fatto la capogruppo Finocchiaro, esultare perché il provvedimento viene spostato, perché lo ritengo irresponsabile. Perché Tremonti ha detto non stanzio i finanziamenti finché questa legge non è passata. Sì, ma non è tanto un'analisi nel merito di Tremonti, è proprio una questione tecnica, ovviamente, essendo questi fondi una legge di stabilità, ma sono collegati al provvedimento, il provvedimento deve essere approvato, altrimenti ci saranno 1500 ricercatori che non possono fare il concorso e anche le altre risorse bloccate. La battaglia per impedire la calendarizzazione del DDL Gelmini in aula al Senato è stata molto molto dura. Parola della presidente dei senatori del PD, Anna Finocchiaro, soddisfatta invece per l'esito della conferenza dei capigruppi. La Finocchiaro ha spiegato che la calendarizzazione ci sarà appunto dopo il 14 di dicembre, aggiungendo: ammesso che il governo sia ancora nelle sue funzioni. Staremo naturalmente a vedere. Prima di voltare pagina, un contributo diverso che però ci riporta sui tetti. Il graffio di Dario Ceccarelli. In sciopero anche i calciatori, per protesta saliranno tutte le notti sul tetto del Billionaire. 14 dicembre, dunque il giorno della chiarezza per la riforma, ma per l'intero governo. La nostra cronista parlamentare Elisabetta Fiorito incontra il ministro Bossi alla buvette e approfitta per fargli un paio di domande. La sentiamo prima di sentire il suo punto sulla politica e anche le considerazioni di Stefano Folli. Ministro, ma questa è l'ultima volta che c'è la maggioranza, dicono, da Futuro e Libertà. E invece bisogna sempre essere calmi. Lei dice che prima del 14 poi ci ripensano? Speriamo di no. Ah, perché lei vuole andare a lezioni? Io voglio andare, voglio passare, che Berlusconi abbia la fiducia. Poi dopo vediamo. Lì ha detto è l'ultima volta che votiamo con il governo, quindi il 14 la fiducia non ce l'avete, ministro. È troppo fretta, mi dai troppo retta alle parole dei politici. In attesa del 14 dicembre Silvio Berlusconi sceglie internet. Il Presidente del Consiglio comunica attraverso il sito online forzasilvio.it. Noi siamo il governo del fare, lasciamo agli altri le manovre e gli agguati di palazzo. Una risposta a Gianfranco Fini e Pier Ferdinando Casini, orientati ad un governo di larghe intese, qualora Berlusconi non passasse la prova della fiducia a Montecitorio. E i finiani sarebbero orientati a votare la sfiducia. Andrea Ronchi. Mancano 13 giorni, aspettiamo. E a seconda delle risposte o mancate, il 13 decideremo. Non ci sono differenze dentro Futuro e Libertà, lo voglio ribadire. Abbiamo fatto una scelta. Noi siamo con Gianfranco Fini. Ma intanto la Lega ottimista, Umberto Bossi è convinto che il governo avrà la fiducia, lo conferma il capogruppo al Senato Federico Bricolo. Il 14 si farà finalmente chiarezza, ognuno dovrà assumersi le proprie responsabilità, finiranno così i tatticismi. Se voterà a favore o contro il governo. Io sono convinto che la fiducia passerà. Intanto però è stop ai lavori di Montecitorio. La Camera non si riunirà per la prossima settimana. Il ministro Bondi eviterà il voto di sfiducia sul suo operato a Pompei. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il percorso verso il voto del 14 dicembre è sempre più accidentato. Da un lato c'è un Berlusconi indebolito dalle continue rivelazioni, le ultime sui rapporti con Putin e anche sul suo stato di salute. Nessuna però di queste rivelazioni è sufficiente fino a questo momento per abbattere il Presidente del Consiglio o per provocare uno smottamento decisivo all'interno del PDL. Dall'altro lato si precisa il gioco delle mozioni di sfiducia. Dopo la mossa del cosiddetto terzo polo, Fini, Casini, Rutelli, ci sarebbero 317 firme alla Camera pronte ad attestare che il governo non ha più la maggioranza. Tuttavia la partita è tutt'altro che finita, tant'è vero che Futuro e Libertà e l'UDC insistono nel chiedere le dimissioni di Berlusconi prima del 14, quindi senza votare le mozioni, e non è un segno di forza, ma di relativa incertezza. In sostanza il punto debole del fronte degli oppositori riguarda il senso della crisi. Al momento sarebbe una crisi al buio, cioè senza una soluzione. Non c'è ancora una maggioranza politica in sostanza, non c'è un governo alternativo in grado di sostituirsi all'attuale. Questa è oggi la situazione e intanto il clima si appesantisce. Eccoci dunque alla conclusione di questa pagina. La prossima settimana la Camera chiuderà in attesa del voto. Riaprirà lunedì 13 alle 16. Punto e a capo. Ma restiamo a parlare del Presidente del Consiglio che ieri era nel Caucaso, in quella terra tra la montagna e il mare che da due secoli almeno misura lo stato di salute, il controllo dell'impero russo, comunque esso si chiami. La scelta di svolgere il vertice Italia-Russia tra le montagne che ospiteranno i giochi olimpici invernali serve anche a rafforzare i rapporti, peraltro saldissimi, tra Roma e Mosca dopo la bufera WikiLeaks. È stato un grave infortunio, lo ha detto a Krasnaya Poliana tra le montagne di Sochi Silvio Berlusconi, cercando però di concentrarsi sulla ragione che lo ha portato qui, al settimo vertice intergovernativo tra Italia e Russia. Un vertice che ha visto la firma di alcuni accordi politici ed economici. Forse uno dei più importanti è il permesso di transito ferroviario sul territorio russo, che la Russia accorderà ad armamenti e munizioni destinate alle truppe italiane in Afghanistan. Gli altri accordi riguardano il protocollo di attuazione dell'accordo di riammissione tra la Comunità Europea e la Federazione Russa, una dichiarazione congiunta per realizzare il partenariato bilaterale per la modernizzazione, uno dei temi che sta più a cuore al Presidente Medvedev. Ci sarà poi un accordo per la semplificazione delle norme di ingresso nella Federazione Russa per i membri degli equipaggi di velivoli di compagnie aeree, lo stesso accordo rispettivamente per le compagnie aeree russe in Italia. Infine è stato firmato un accordo di collaborazione nell'ambito dello sviluppo delle piccole e medie imprese tra il gruppo bancario italiano UbiBanca e la Vnesh Econombank, la banca per lo sviluppo e per l'attività economica estera. Un accordo quadro sulla collaborazione postale tra Italia e Russia, con le poste italiane e il Elsag datamato del gruppo Finmeccanica e le poste russe. E infine un memorandum d'intenti sulla collaborazione nel campo dell'energia elettrica tra Enel e la società per azioni Interrao. Con questo si è conclusa la parte ufficiale del vertice di Krasnaya Poliana, che continua con un pranzo a tre tra Silvio Berlusconi, Medvedev e il primo ministro Vladimir Putin, che è appena arrivato. Antonella Scott, Radio 24 sulle 24 ore, Krasnaya Poliana. Julian Assange, protagonista decisamente di questa settimana. Voi come lo valutate? Un eroe? Un truffatore da arrestare rapidamente, come dice il ministro degli esteri Frattini? Alessandro Milan ve lo ha chiesto all'appuntamento di Bianco o Nero e sulla figura dell'australiano ha parlato con un ospite molto esperto. E allora eccoci qua, per ora voi nel sondaggio dice il 63% di voi dice fa bene Wikileaks. Intanto lo voglio chiedere all'ambasciatore Sergio Romano. Buongiorno ambasciatore. Buongiorno. Vedi, ci sono state altre fughe di notizie nella storia americana, quella delle carte del Pentagono, per esempio, all'inizio degli anni 70, quando una persona fotocopiò un numero considerevole di documenti, grosso modo 42 volumi di documenti, poco meno di 4.000, e li distribuì al New York Times e poi finirono anche al Washington Post. Ma quel signore aveva una motivazione civile, voleva qualche cosa, voleva che l'America fosse consapevole degli errori che erano stati commessi con la guerra del Vietnam. Si proponeva un obiettivo. Qual è l'obiettivo di Assange? Pare che dica le istituzioni in quanto tali corrompono e quindi vanno sfidate. Questo è un articolo di fede. Io agli articoli di fede non ho mai creduto. E tra l'altro osservo che questa massa di informazioni che sono finite sul mercato mediatico grazie a Wikileaks finiscono tra l'altro per rendere poco interessanti e poco utili quelle informazioni che pure esistono all'interno del pacchetto dei 250.000 files e che potrebbero invece essere effettivamente rivelatori di pratiche che non debbono essere seguite, di errori che sono che è importante che la pubblica opinione conosca. Che senso ha rovesciare sul mercato sempre delle informazioni che tra l'altro ci confermano quello che noi sapevamo? Punto e a capo. Da Wikileaks ai mondiali di calcio. Pessimo autunno per la presidenza Obama, che dopo aver incassato la sconfitta pesante e personale alle elezioni di midterm, deve raccogliere i cocci della crisi Wikileaks e riceve un vero e proprio schiaffo quando la candidatura americana per i mondiali di calcio 2022 si perde nelle sabbie del deserto. The winner the 2022 FIFA World Cup is Qatar. La FIFA ha sbagliato. Così l'ira di Barack Obama si scaglia contro la Federcalcio Mondiale, che ai suoi Stati Uniti ha preferito gli sceicchi del Qatar come sede dei mondiali 2022. La rabbia di Obama, che bissa così il KO olimpico di Chicago contro Rio de Janeiro, la soddisfazione di Vladimir Putin, nuovo zar della Russia pallonara, che ospiterà la Coppa nel 2018, fa doppietta con le Olimpiadi invernali di Sochi 2014 e difende invece l'esecutivo FIFA dalle accuse di corruzione. E occhio, perché dietro l'angolo c'è la Cina, che punta all'edizione 2026. Ieri la Russia ha piegato le candidature congiunte belga-olandese e ispano-portoghese e sbaragliato quella della patria del football, l'Inghilterra. Per il 2022 il Qatar ha superato in volata proprio gli Stati Uniti dopo l'eliminazione di Australia, Giappone e Corea del Sud. È la globalizzazione, si dirà, ma anche la vittoria di gasdotti e petrodollari. A Doha e dintorni si giocherà in stadi al chiuso e con l'aria condizionata giornata, visto gli oltre 40 gradi all'esterno. Scelta a dir poco a sorpresa quella del presidente Blatter e della FIFA, sempre che poi magari un giorno non sia Wikileaks a spiegarci com'è andata davvero ieri a Zurigo. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Punto e a capo. Secondo me si sta a fa un sacco di risate. Dice, guarda che stata a combinare, che casino che fu combinato. Enrico Montesano, l'avrete senz'altro riconosciuto, uno tra i tanti, davvero moltissimi gli attori, e non solo, che si sono presentati per l'ultimo saluto a Mario Monicelli. Monicelli, un grande regista, un narratore, un uomo che è stato lucido in tutti i suoi 95 anni, persino nella scelta estrema che appunto ha messo fine alla sua vita. Mario Monicelli, il padre della commedia all'italiana, è stato definito da molti, salutato dalla gente del quartiere, dagli amici di Rione Monti e anche dalle campane del parroco, che non ha fatto mancare fuori da ogni polemica il segno del suo affetto. Io lo conoscevo, insomma, sono di Rione Monti, quindi ogni tanto si beveva insieme quando ancora poteva, e mi ricordo a casa, mi ricordo le sue arrabbiature, la sua rabbia verso le cose che non vanno. Negli ultimi anni è riuscito a dimostrarsi di una gioventù e ha avuto una capacità di analisi della nostra società, ed è il motivo per cui sono qui. Perché è una persona che mi piaceva tanto, è per questo. Bisogna rispettare questo suo estremo scatto di volontà, ha detto il presidente della Repubblica Napolitano visitando la Camera Ardente, e l'ha definito un uomo che ha fatto sorridere, commuovere e riflettere. Un invidiabile epitaffio, non trovate? Punto e a capo. In nome del popolo italiano, la Corte di Assise di Appello di Firenze, prima sezione, ha così deciso. Dichiara Spaccarotella Luigi colpevole del reato di quell'articolo 575 codice penale. Ridetermina la pena nei confronti dell'imputato in anni 9 e mesi 4 di reclusione. Dichiara Spaccarotella Luigi interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena, esclusa la sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale. Conferma nel resto la sentenza impugnata. Tra le notizie da ricordare in questa settimana, mercoledì 1 dicembre l'agente di polizia Luigi Spaccarotella è stato condannato per omicidio volontario a 9 anni e 4 mesi di reclusione dalla Corte di Appello di Firenze. Il poliziotto era accusato dell'omicidio del tifoso laziale Gabriele Sandri, avvenuto l'11 novembre del 2007 nell'area di servizio Badia Alpino sull'autostrada A1. Giovedì, invece, il punto a un mese di distanza della nostra Maria Luisa Pezzali sull'alluvione che ha investito le province di Vicenza e Padova. In giornata verranno distribuiti sacchetti di sabbia direttamente lungo le vie. Se ci sono i fondi, queste cose qua, gli argini, vengono tenuti puliti, vengono messi in sicurezza. C'è una catastrofe, tutto da buttare. Bisogna vedere che se dalle parole arrivano i fatti, speriamo bene. Un mese fa il Veneto, il giorno dopo l'alluvione che ha sepolto di acqua e fango le province di Vicenza e Padova, piangeva le sue vittime, contava i danni e si rimboccava le maniche. Qualche giorno dopo gli industriali minacciavano la rivolta fiscale nel caso non fossero arrivati presto gli aiuti. Adesso, a un mese di distanza, il governatore Zaia spera che prima di Natale si possano dare i primi rimborsi dei danni. Il governo ha varato una mini proroga per gli acconti fiscali e un rinvio del pagamento dei contributi previdenziali per le aziende colpite. Ma servono interventi di più ampio respiro, ci dice il presidente di Confindustria Vicenza, Roberto Zuccato. Viviamo ancora nell'incertezza. Ovviamente siamo contenti dei primi interventi, che c'è stata una proroga fino al 16 degli adempimenti fiscali e dell'IVA e fino al 24 dell'INPS, però sono interventi momentanei, temporanei. Normalmente un territorio che subisce questo tipo di evento catastrofico ottiene una sospensione di almeno 6 mesi. Intanto si pianifica la realizzazione, fra le altre cose, dei nuovi bacini di sfogo per i fiumi Bacchiglione in testa. C'è moltissimo da fare, ci dice Andrea Crestani, direttore dell'Unione Veneta Bonifiche. Da casse di espansione a bacini di laminazione per le acque, a difesa di centri urbani, risazionamenti anche degli invasi. Non siamo preoccupati, però l'emergenza resta. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Punto e a capo. Mercoledì 1 dicembre, giornata contro l'AIDS. come vi ho detto, i numeri diciamo migliorano, ma sono ancora 33 milioni le persone affette dal virus. Il Sudafrica, per esempio, è estremamente preoccupato dal peso, dal costo delle cure. Ha stimato di dover spendere 80 miliardi di dollari nei prossimi 20 anni. L'Italia, invece, che non ha ancora versato i 280 milioni di euro attesi dal fondo per la lotta all'AIDS, perderà il seggio nel consiglio di amministrazione. Il punto sulla sieropositività, il professor Moroni l'ha affidato a Nicoletta Carbone. Partiamo da un serbatoio di persone sieropositive in Italia che è stimato attorno ai 150.000. Fino a 10-15 anni fa molte persone sieropositive morivano. Oggi, con le terapie che abbiamo a disposizione, la mortalità è diventata bassissima. È limitata a quelle persone che non si curano o che si curano tardi o che hanno una serie di altri problemi per cui i farmaci non possono essere assunti con regolarità. D'altra parte si infettano sulle 5.000 nuove persone all'anno, anche queste sono stime perché dati sicuri non si possono avere. Queste persone vanno ad aggiungersi, ad alimentare il numero di persone sieropositive esistenti. Non essendoci più uscite legate alla mortalità, il bacino delle persone sieropositive è destinato a incrementarsi. 5.000 persone all'anno sembrano poche, ma in 10 anni sono 50.000. Si è parlato a lungo di un vaccino e in questo caso la ricerca lavora su due direzioni, un vaccino terapeutico destinato ai sieropositivi e uno preventivo, quindi per le persone non malate. Professore, sì. Mi spiega a che punto siamo poi alla fine? Si stanno facendo passi avanti, piccoli passi avanti, ma significativi passi avanti. È chiaro che il vaccino sarebbe la soluzione del problema, sia per quanto riguarda i nuovi contagi, sia per quanto riguarda la eradicazione. Oggi però si comincia a riparlare della possibilità di eliminare il virus attraverso dei farmaci. Questa è una novità importante. La ricerca di base ha permesso di intravedere delle vie che permettono di arrivare a colpire anche il virus latente, quello che non si moltiplica, quello che è murato nelle nostre cellule, sì, e che è quello che garantisce la sopravvivenza del virus per tutta la vita. Punto e a capo. Gli italiani vogliono ritrovare la loro identità. Parole di Riccardo Muti, intervistato giovedì sera al termine del Mosè e il Faraone al Teatro dell'Opera di Roma dalla nostra Elisabetta Fiorito. Maestro, questa sera addirittura ha concesso un bis dentro l'opera, è stato un momento molto toccante. Io solitamente non concedo bis, l'ultima volta è stata nel 1986 alla Scala per il Nabucco. La preghiera del Mosè insieme al Vapensiero del Nabucco è una delle pagine che più sta nel cuore degli italiani. Quindi questa richiesta del bis non era semplicemente una richiesta per una famosa cabaletta o aria di un cantante, ma era la richiesta del bis di una pagina profondamente spirituale, di grande commozione, e quindi questa richiesta spontanea è stata la dimostrazione che il pubblico, quindi gli italiani, hanno bisogno di spiritualità e di commozione, al di là di tutte i drammi, le tragedie, le difficoltà di carattere sociale, di carattere politico. Gli italiani vogliono ritrovare la loro identità e questa pagina di Rossini insieme al Vapensiero è veramente l'anima italiana. Quindi questa richiesta io l'ho sentita in questi termini e per questo motivo io eccezionalmente ho concesso il bis. Senta, ma lei rappresenta un po' una speranza per la cultura italiana, cioè un periodo molto difficile. È un periodo, sono 40 anni che io discuto su questa storia della cultura in Italia. L'Italia è rispettata nel mondo per quello che è il suo passato culturale. Per cui non dare importanza alla cultura e non aiutarla e non far sì che i ragazzini, i bambini crescono nella cultura e come tagliare le radici di questo paese. Rossini è stata una scelta particolare questa qui, un Rossini serio, molto diverso dal barbiere di Siviglia. Il Rossini serio rappresenta con le sue opere serie, tipo Guglielmo Tell, appunto il Moïse, la Donna del Lago, la sede di Corinto, Semiramide, eccetera, grandi cattedrali, quindi il Rossini serio è non solo geniale ma molto più importante del Rossini comico per quello che è stata l'influenza su tutta la musica operistica europea. Da Roma a Milano, ma restiamo a parlare di opera, dove naturalmente si completano insomma gli ultimi ritocchi alla prima della stagione scaligera. Il tempo di Milano, pensate, non fa bene alla gola dei cantanti, non sorprenderà chi è da queste parti. Sono raffreddati due degli interpreti delle Valchirie, Waltraud Meyer e Simon O'Neill. Insomma, prova generale trasformata in prova tecnica e ora si attende il giorno fatidico. Intanto il sovrintendente Stéphane Lissner dice: la cultura fa mercato. Sentiamolo nell'intervista di Armando Torno. In 2009 la Scala ha ricevuto dello Stato italiano 37 milioni di euro e ha pagato 39 milioni di euro di tasse. Poi basta chiedere alla città di Milano quello che ovviamente la marca Scala dà alla città. È una cosa enorme, e anche da un punto di vista economico. Alla Scala, che è l'unico teatro in Italia che ha tanto dei privati, la partecipazione dei privati rappresenta soltanto il 16% del budget complessivo. Senza i privati non potremmo più andare, anche noi, non potremmo più fare questa qualità senza i privati. Però i privati non possono sostituire lo Stato. Effettivamente basta chiedere perché il San Siro o Meazza, che dir si voglia, venga chiamato la Scala del Calcio e così via. Insomma, ma dobbiamo davvero discutere ancora sul fatto che un paese come il nostro abbia nella cultura il suo oro nero? Bene, cari ascoltatori, con questo siamo davvero arrivati alla fine del nostro appuntamento settimanale. Non mi resta che ringraziare Pietro Lacorte, che ha curato la regia di questo programma, lasciarvi all'appuntamento europeo con Federico Taddia e l'Altra Europa. Noi ci risentiamo il prossimo sabato.